Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. Sono una fra le milioni di persone al mondo che manifestano i segni di un disturbo del comportamento alimentare. Ovvero sono una persona gravemente obesa, un mangiatore compulsivo. Il cibo per me è una droga. La sola vista del cibo mi ha sempre terribilmente attratto. Sono arrivato a ingurgitare anche 30.000 calorie in un solo giorno. Mi chiamo Mario Celotto, ho 33 anni e sono napoletano. Sono sposato, ho un bimbo di un anno, Samuele, e un altro in arrivo il mese prossimo, che si chiamerà Cristian. Sono le 16:07, questa è Radio 24, è un lunedì qualunque, 6 di... qualunque mica tanto, mi dirà Rudy dall'altra parte, è il 6 di febbraio, dicevamo, sono le 16:07. Oggi si parla di una storia che è una storia di sofferenza, ma anche di rinascita, e ringrazio anticipatamente Mario per averci mandato il suo racconto e per la chiacchierata che faremo a breve. Si parla di cibo oggi, si parla del rapporto non sempre sano che abbiamo col cibo, ma si parla semplicemente di quello che state mangiando, della dieta che state seguendo in questo periodo, qualunque sia il motivo per cui la state seguendo, motivi di salute, motivi di sport, motivi... basta, in sostanza, più o meno questo, di linea, vabbè, in generale, comunque, quale dieta state seguendo, che cosa mangiate, che cosa non mangiate, quanto la state patendo, 349-238-6666, oppure c'è un profilo Facebook che è sempre quello, che è Matteo Caccia, io sono qui. Prima di farlo però, un annuncio veloce, diciamo un annuncio di quelli ufficiali, già l'avrete sentito se ascoltate questa radio tutto il giorno, Radio 24 è la BIT, che è la Borsa Internazionale del Turismo, tra due fine settimana, cioè quanto c'è esatto? Venerdì, sabato e domenica, credo, forse anche giovedì, forse no, venerdì, sabato e domenica, giorni 17, 18, 19, credo, niente, no? Mi segnassi una volta un calendario. Marga, mi guardi esattamente i giorni in cui siamo alla BIT? Noi però, allora, l'unica cosa certa è che noi di voi siete qui, siamo lì venerdì, ve lo dico semplicemente se siete degli operatori del settore e se siete alla BIT, perché il venerdì la BIT non è aperta al pubblico, è aperta sabato e domenica, quindi veniteci, passate, c'è Radio 24, ma banalmente non ci siamo noi. Ma questo è il motivo per cui ve lo dico è perché se avete lì belli caldi dei racconti da mandarci che parlano di viaggi, questo è il momento esatto per farlo, perché in quella puntata vorrei parlare solo di quello, vorrei dedicarla tutta a un racconto di viaggio. Quindi voi siete qui, @radio24.it, ne sono già, e magari fate così, nell'oggetto della mail scrivete BIT o BIT viaggi o BIT racconto di viaggio, insomma qualcosa di queste cose che vi ho detto mettetela. Già ne sono arrivati di racconti di viaggio, già infatti li abbiamo letti, li abbiamo raccontati. Se però ne avete lì appunto uno che avevate in mente di scrivere e magari stasera ci avete un'ora e mezza, due, tanto lunedì in TV non c'è niente, siete ancora stanchi del weekend, non sapete cosa fare e magari questo è il periodo in cui cominciate a pensare ai viaggi, e allora vi mettete lì e scrivete un racconto, una pagina, non di più, che parli di un viaggio per la BIT, dal 16 al 19 mi dicono Radio 24 è là, noi siamo esattamente venerdì 17 alle 16 come al solito. 349-238-6666 invece per la vostra dieta di questo momento, proprio di questi giorni esatti. Esther: io adoro mangiare e cucinare, penso che il cibo sia una delle cose più belle della vita, e va bene, siamo d'accordo. Non ho mai seguito diete, ma ora che aspetto un bimbo, più che dieta devo stare a stecchetto e stare attenta a quella che mangio, quindi no insaccati, no carne, ah no, no insaccati e no carne e pesce crudi, no troppi zuccheri, no alcol e superalcolici, per me un supplizio. Questa cosa non ho mai capito perché, no insaccati però il prosciutto sì possono mangiare le donne incinte, no forse neanche il prosciutto possono mangiare le donne incinte. Vabbè. Chiara: amo mangiare di tutto e in particolar modo schifezza di ogni sorta, però a lungo andare non era salutare, quindi la mia dieta è questa: no dolci, no zuccheri, no grassi, poca pasta, tanto pesce e verdura. Ammetto di fare qualche sgarro, ma ho perso 8 kg. Roberto: conosci la dieta dei carati? Non consiste nel mangiare carrube. Sì, perché è dalle carrube che prendono origine i carati. Provare per credere. Mangiate mezz'ora prima dei pasti, riducono l'appetito. Non ho capito, scusa Roberto, cioè tu mangi delle carrube perché ti fanno passare l'appetito? Perché fanno schifo? Però scrivimi qualcosa.

Nonostante la strada sia per me ancora lunga, il solo ricordo delle sue lacrime e di quel pianto che non riuscì a placare mi danno la forza, la determinazione e il coraggio per poter andare avanti. Per Mario il cibo è un incubo e un sogno, un piacere da inseguire in continuazione, senza mai riuscire a soddisfarlo. Deve essere davvero come una droga, che ti fa stare tanto bene quanto male, per il resto della tua vita. Io, come su tantissime cose, non ne so niente. Se poi contate che per anni mi sono cibato solo a prosciutto crudo a pranzo e coppa a cena, siamo a posto. Non mi interessava del cibo. Ero talmente concentrato su quello che stavo facendo che non avevo spazio per nient'altro. E allora ingerivo alimenti come se fossero un po' delle medicine, no? Proteine, grassi, carboidrati, con qualche mela, qualche arancia qua e là. Mi sembrava di essere Pippo Inzaghi, che da quando fa il calciatore mangia solo riso in bianco e bresaola tutti i giorni. Lui lo fa per tenersi in forma. Io invece lo facevo solo per evitare di perdere tempo in un'attività che mi sembrava utile a stare in piedi e basta. Poi però è arrivato un giorno, qualche anno fa, in cui ho dovuto partecipare a una festa di matrimonio. Sono cose che cerco di evitare, però quella volta ho dovuto cedere. Era un amico troppo importante. E allora, dopo essere andato in chiesa a fare il testimone, mi sono anche dovuto servire il pranzo in una villa sul lago. C'era il catering, erano arrivati due furgoni pieni di roba da scaldare o da cuocere direttamente lì, con la cucina da campo che si erano portati dietro. C'era cibo per un battaglione, anche se noi eravamo solo un centinaio. Ed era talmente grande la sproporzione tra quantità di roba da mangiare e numero delle persone che ho deciso di farmi anche lì solo una fettina di crudo e basta. E me ne stavo un po' in disparte, senza farmi vedere, guardando piatti rimandati indietro ancora completamente pieni, perché la gente era sazia già dopo le prime tre portate. E ancora ne dovevano arrivare altre. E questo mi sorprendeva e non mi piaceva molto, solo che non ci potevo fare niente. Speravo semplicemente che passasse tutto in fretta. E guardavo questo cibo maltrattato, gettato via, e a un certo punto mi è venuta perfino tenerezza per lui, come se fosse degno di sentimenti umani. Cioè, mi sembrava poco carino trattarlo così male. E allora ne ho mangiato un po'. Sono andato dietro le quinte a prendere un piccolo assaggio da tutti i piatti di portata, mentre i cuochi lavoravano come in catena di montaggio. Un boccone di crespelle, un pezzo di filetto, un po' di insalata con il formaggio. Era tutta roba buonissima, che mi sembrava di non avere mai assaggiato. Avevo scoperto, o più che altro riscoperto, un mondo di sapori, di profumi. Ecco, e da quel giorno lì sono diventato un appassionato di cucina. Con tanto di libri, di ricettari, tutte quelle robe lì, programmi di Gordon Ramsay, cene per far assaggiare agli amici le mie nuove invenzioni. Ed è una cosa meravigliosa. Una cosa che di recente si è un po' placata, a dire la verità, però che rimane in fondo sempre un po'. Eppure, dovunque accendi la televisione oggi trovi sempre gente che si mette ai fornelli e fa programmi. Talent show sui programmi. Ce n'è anche uno in cui ci sono dei bambini australiani che partecipano a una competizione per vedere chi è il miglior chef. Ma sono dei bambini, eh? Roba che probabilmente non hanno mai nemmeno mangiato il gorgonzola. Mi sembra che quello sia diventato un disturbo generalizzato della società. È troppo, non se ne può più, per non parlare dei personaggi televisivi che invece si inventano cuochi. E allora mi sono rinchiuso in una specie di fase di sperimentazione, dove non leggo più riviste, non guardo più programmi sul cibo, e cerco di mettere insieme dei piatti che mi invento da zero. Un po' come il goulash con le prugne. È molto semplice, è un goulash classico, solo che fatto usando la carne di maiale invece di quella di manzo. Faccio andare un soffrettino all'italiana, ci aggiungo uno spezzatino sottile di suino e un po' di passata di pomodoro. Lo faccio andare tanto e quindi aggiungo le patate a pezzi piccoli. E poi ancora un po' di brodo vegetale e tanta paprika. E va finché non diventa denso. Quindi lo impiatto e di fianco ci metto delle prugne secche che ho fatto andare al forno per una decina di minuti. Mi ha dato una grande soddisfazione l'altra sera. E ne ho mangiato tanto che speravo non finisse più. Perché in fondo l'importante è non esagerare. I'm going down to the river. I'm going down to my sister's. And I'm gonna swim with Ophelia to let her know that I miss her. I'm on your side. I'm on your side. I'm on visto due foto di Mario, quella che ci ha mandato e che vi racconto più tardi e che trovate sul sito di Radio 24, e un'altra invece di qualche tempo fa, probabilmente di prima della dieta. E probabilmente mi sento veramente di fargli i complimenti. Pronto Mario? Ciao Matteo. Ciao, come stai? Bene, bene, tutto bene. Senti, di quando è quella prima foto che ci hai mandato? Veramente un po' in stile prima della cura e dopo la cura. Di un paio di mesi prima di iniziare la cura. E quindi un anno fa? Sì, all'incirca, quasi un anno fa. Senti, sì. Perché tu nel racconto scrivevi che hai perso 45 kg, però prima dicevi che ne hai persi di più già adesso. Sì, sì, siamo arrivati a 60. Senti, come stai Mario? Bene, benissimo, molto molto meglio. Dove ti trovi? Dove ti trovi? Sei a casa, sei al lavoro? Sì, in questo momento sono a casa perché oggi siamo andati in giro per medici, per la moglie. Ah certo, quanto manca? Bambino. Quanto manca? Il mese prossimo. Ah, quindi adesso quindi... è lei che ha un panzone di quelli giganti, tipo sì, che sì, non ce la farà più, oppure... No, perché infatti, io ogni tanto vedo... l'ho messo a lei. Vedo degli amici o delle amiche che tipo c'hanno sta panza enorme, dico quanto ti manca? 2 mesi, ma non ce la fai arrivare a 2 mesi. Senti, sarà un maschio o una femmina? Maschio, maschio. Quindi un altro? Fratellino, sì sì. Che abbiamo già deciso come si chiama, proprio fatti vostri mi sto facendo. Christian, perché c'è un nonno... No. Non c'è, no. Piace. Eravamo indecisi sul primo tra Samuele e Christian, visto che è arrivato subito l'altro. Giustamente, a scalare siamo arrivati al secondo. Sì, sì. Senti, dimmi invece velocemente, non voglio entrare nel merito della questione medica, però semplicemente che cosa mangi? Che cosa mangi e che cosa non mangi? Una semplicissima dieta che ovviamente evita tutti quelli che sono gli zuccheri, i dolci, fritture, ma è ben calibrata per il mio fisico e per alcune mie patologie dovute all'obesità. Certo. Che mi hanno portato ipertensione, uricemia alta, quindi alcuni alimenti sono stati eliminati, però più che altro c'è stato un supporto psicologico. Che la dieta si fa con la testa, non immagino. Al tavolo. Dimmi cosa hai mangiato a pranzo, ad esempio. Oggi ho mangiato patate con delle verdure. Tutto pesato, ovviamente. Ah, certo, al grammo proprio? Sì, sì, sì. Cioè, tipo quanti grammi di patate? Beh, no, ce n'ho abbastanza, circa 350 grammi. Ok, senti, che lavoro fai invece, Mario? Io sono un operaio, lavoro nel settore dell'oreficeria. Cioè, quindi... cioè, in un laboratorio orafo. Quindi fai gli anelli. Sì, un ignorante, sì, proprio. Fai gli anelli e gli orecchini. Sì, sì. Ma sono cose di precisione, no? Abbastanza. È anche un lavoro un po' sedentario, quindi aiuta, diciamo. Ma quindi tanto il movimento. Hai quelle lenti giganti davanti agli occhi per lavorare i gioielli? Sì, oppure? Sì, sì. A volte le utilizziamo, sì, per fare delle cose specifiche, hanno utilizzare anche quello. E com'è che uno comincia a fare questo lavoro, Mario? Per caso mi sono trovato, io ho cominciato tanti anni fa come ragazzo di bottega e poi mano a mano ho fatto, diciamo, carriera. Hai fatto carriera. Senti, invece, poi ti devo salutare, dimmi qual è il nostro obiettivo, quanti chili dobbiamo perdere ancora? Beh, diciamo ne mancano 15. Allora, ma a sto ritmo ormai per maggio siamo pronti? Sì. Dai, facciamo un anno completo e abbiamo finito. Poi dopo il resto è mantenere il peso preso. Quando nasce Christian siamo pronti. Mario, ti ringrazio moltissimo, in bocca al lupo per la tua dieta e per il secondo figlio. Grazie a te Matteo. Ciao, buona giornata. Ciao, ciao, buona grazie. Giornata. Donne incinte, noi insaccati e crudi per toxoplasmosi. Micaela, grazie. Adesso la borsa e poi voi siete qui. Voi siete qui. Nella foto che ci ha mandato Mario è su un divano e tiene in braccio Samuele, il primo figlio, visto che il secondo deve ancora arrivare. È in una tenuta abbastanza casalinga, da giorno feriale più o meno, ed è una persona sana, sta bene, ha un bel sorriso sulle labbra, ha i capelli corti e mi sembra felice. Sono le foto, tutte le foto che vi racconto quotidianamente sul sito di Radio 24, dove trovate la mappa. Al 349-238-6666 invece mi chiedono se si può venire alla Beat venerdì. No, venerdì no, è aperta al pubblico sabato e domenica, a meno che non siate operatori. Però comunque questo programma venerdì 17 sarà in onda da là, per questo se avete un racconto di viaggio mandatelo. Voi siete qui, @radio24.it. Si parlava di dieta, però si parlava di cosa state mangiando in questo periodo, se state mangiando qualcosa in particolare. Sono un maratoneta, scrive Mario, quindi faccio molta attenzione a cosa mangio, ma sono anche goloso quando fatico. Però non mi dici cosa mangi. I maratoneti, vabbè, avranno un regime alimentare da atleti, no? Sì, però particolare, perché poi in realtà sono abbastanza secchi, no? Sembra tipo delle ossa che camminano. 18 kg in 6 mesi, ho eliminato gli zuccheri, solo nella frutta, 5 pasti al giorno, mantengo la linea da un anno, Andrea dalla Spezia, Ale. E poi, ecco, i nomi delle diete sono le mie cose preferite, Eros da Udine. Io seguo una dieta di segnale. Si tratta di lanciare dei segnali al nostro metabolismo. Il passo principale è la colazione al mattino, tassativamente entro un'ora dal risveglio, perché il nostro corpo al mattino riceve dei segnali dal subconscio millenario che dicono devi mangiare, se no muori di fame. E allora si deve sopire questo messaggio lanciando un segnale opposto di sazietà, e così via. Funziona, e soprattutto se si sta bene, se riduce la massa grassa, vantaggio di quella magra. Cioè, Eros, fammi capire, ci stai dicendo in sostanza di mangiare a colazione, giusto? Cioè, nel senso, il messaggio ancestrale è ho fame e quindi devo mangiare, giusto? 349-238-6666. Io sono, Paolo scrive, un vegetariano etico da 40 anni. Cosa vuol dire vegetariano etico? Cioè, semplicemente sei vegetariano per scelte etiche. Solo per non avere sulla coscienza e sullo stomaco milioni di creature. E vengo da una famiglia di macellai. Vabbè, Paolo, questo probabilmente spiega di più di qualsiasi altro motivo la tua scelta etica. Ho provato varie diete, a zona, eccetera, eccetera. Tutte cavolate. Sono andata da un dietologo, ho fatto esami del sangue, mi ha fatto una dieta personalizzata a 1500 calorie. Ho perso 22 kg e sono in formissima. Ale, mi sembra che la cosa più semplice sia andare da un dietologo. Poi era arrivato questo messaggio da Luigi. Ve lo ricordate Luigi, quello della lavastoviglie? Quello che... Vabbè, il messaggio era lungo, ma io vi leggo solo un pezzo, che è una specie di diario, un bogliettino che lui ha scritto nel 2009. Prendo un foglio e comincio a scrivere. A. Dimagrire fa bene. B. Mi entra il completo grigio ferro delle nozze e dei battesimi. C. Sono più contento e la fame che sento è soltanto il segnale che sto dimagrendo. Forza. D. A Posterla, che credo sia un posto, posso parcheggiare contro il muro e non sul precipizio. E. Risparmio nella spesa. F. Per le porzioni basta la metà di quello che mangiano gli altri. G. In caso di crisi mangiare piano piano la prima carota o frutto che trovi. H. Tutti mi fanno un sacco di complimenti. I. Ogni tanto rileggere questi appunti. C'era però, questo è chiaramente autolavaggio del cervello, quando diceva il punto E, risparmio nella spesa e anche nei lavaggi della lavastoviglie. Niente, strava della lavastoviglie, Luigi non gli passa. 349-238-6666. Parlando di dieta e di cibo, ci è venuto in mente un pezzo da un libro magnifico che è una sorta di romanzo enciclopedico di metà del secolo del 1500, che è Gargantua e Pantagruele. C'è l'inizio del romanzo, parla di cibo, come si parla in gran parte del romanzo, no? Da cui appunto sì, quando uno mangia tanto e se la gode si parla di pranzi pantagruelici, mica peraltro. Rabelais all'inizio racconta, proprio prima che nasca Gargantua, quando ancora è nella pancia della mamma, che si chiama Gargamella, la madre esagera mangiando un po' troppa trippa. L'occasione e maniera onde Gargamella diede alla luce un bambino fu la seguente. E se non ci credete, che vi scappino le budella dal sedere. Le quali budella scapparono appunto a lei, un pomeriggio del terzo giorno di febbraio, per avere mangiato troppo foiolo. Foiolo è trippa grassa di sanati. Sanati sono buoi giovani ingrassati a greppia e in prati bisettili. Prati bisettili sono quelli dove si taglia l'erba due volte l'anno. Di questi buoi giovani ne avevano fatti ammazzare 367.014 per essere salati il martedì grasso, onde averne a primavera carne di bue stagionata in abbondanza, per fare commemorazione di salumi al principio del pranzo ed entrare meglio nel bere. Le trippe furono copiose, come potete immaginare, ed erano così ghiotte che tutti se ne leccavano le dita. Ma il vero diavolo a quattro stava nel fatto che non era possibile conservarle a lungo, perché sarebbero andate male. Cosa giudicata sconveniente. Per cui si concluse che se le sbalafrerebbero subito, senza perderne un grammo. L'ottimo Grangola se ne faceva una festa e dava ordine perché si viaggiasse a quintali. Diceva tuttavia alla moglie che ne mangiasse meno che poteva, visto che toccava il termine della sua gravidanza e che quella trippaglia non era cibo granché raccomandabile. Ma nonostante queste rimostranze, lei ne mangiò 16 moggia, 2 staia e 6 caraffe. Dopo il desinare andarono tutti in massa al saliceto e là, sull'erba folta, danzarono al suono di pifferi festosi e di flebili cornamuse, così allegramente che era una soddisfazione dell'altro mondo vederli farsela bene a quel modo. Io mangio un sacco di schifezze a tutte le ore, però peso sempre 43 kg. Fortuna? No, non so, aspetterei a dirlo, Vanessa, prima che ti viene un coccolone a breve. Dieta Dukan, qualcuno la sa? No, io non la so. Quello che so però è che tra i primi libri più venduti in classifica. Però d'altra parte le classifiche dei libri più venduti vedono dei gialli, dei romanzi gialli, dei romanzi che parlano di dieta e dei romanzi che parlano di cibo, con la Clerici e compari. E poi ultimo messaggio di oggi: Vittorio, io mangio come un porco e sto benissimo. Grazie a lui, grazie a Fabio Cantadori, a Stefano D'Andrea, a Tiziano Bonini e a Margherita Ina. La storia di oggi era la storia di Mario, parlava di cibo. Quella di domani è la storia di Paride e parla di ottimismo. A un certo punto, dopo quasi un chilometro di spiaggia e aver incontrato solo 2 persone, Mario interrompe i discorsi e mi chiede: raggiungiamo quell'isola? Io lo guardo verso il mare, verso l'isola, e penso: quanto sarà distante? Quanto tempo ci vorrà? Non sono il tipo da fare cose avventate. Ma Mario insiste: allora? Raggiungiamo quell'isola? Ma sì, dai, cosa vuoi che sia, mi dico. E poi rispondo: va bene, andiamo.